mio paese è l'universo, la mia terra è il cielo, il mio cielo è il mare, della coscienza il cuore. Chi ha sete di giustizia avrà di cui gioire, chi semina nel cuore vedrà con gli occhi della luce del sole. La speranza dei giusti è mia sorella, mio padre sei tu, dolce mia stella. Cerco poteri, io non cerco denari, io semino solo, solo nei cuori. Sono un contadino del cielo, a volte pieno di dubbi, altre volte sereno, concimo la mia terra. Con le mie mani non domando nulla a nessuno, non ho timore del domani. Può cascare il mondo, sfracellarsi la terra, io amo chi ha una speranza, ma temo chi non ha coscienza. Danzo per la pioggia che illumina i miei campi, danzo per il vento che spazza via ogni tormento. Prego che i miei frutti li mangino gli uccelli che migrano solari in tutti i continenti. Prego per i tuoi occhi che trovino la pace, la voglia di ribellarti a chi ti toglie luce. Il mio paese è l'universo, la mia terra è il cielo, il mio cielo è il mare, della coscienza il cuore. Sono un contadino del cielo, a volte pieno di dubbi, altre volte sono sereno, concimo la mia terra. Non domando nulla a nessuno, non ho timore del domani.